onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone One. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi simpatici amici ascoltatori. Scusa Sara, ti interrompo dal Sant'Elia. Ecco, cominciamo bene. Allora, questa è Radio F dal 1976 e il programma è Piazz'Alta dal 1976, ma anche prima. Un programma di Vasariana memoria. E allora, la sigla di Giuliano Giuscobelli 2, che è il titolo del brano, Giuscobelli 2 segna l'inizio dura, di questa nuova dura puntata, cari l'ottava amici puntata di Piazz'Alta. Ormai da Che inizio, ragazzi! Bellissimo! Sinto pop. Questo pezzo di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Senza dubbio, ti è piaciuto, vero Marzi? Ma sì. Non ti ha dato una scarica d'energia? Una scarica. Sì. Dormi. Ciao, no, simpatici amici. Il problema è che Marzi ora si deve ancora un po' scaldare, perché si sa, i motori, insomma, strappiamo. Di un tempo hanno bisogno di tempo, nel senso di una volta a un tempo, sì, solo di una volta, Marzi, okay. E fermati qui, perché di testa calda, per esempio, no? Che noi conosciamo bene. Io Alara. No, però quanto è uguale. Bello sentirvi parlare. Piazza Alta. E no, allora, ma diciamo con chi abbiamo iniziato, però, insomma, con chi abbiamo... avete a che fare voi? Iniziato con un gruppo di tutto rispetto, con i Subsonica. Vabbè, ma io avevo delle memorie, mi venivano delle immagini, delle sì. immagini mi venivano. Come non ti senti? Non ti mi senti sento bene, così, no? Non sei mi sento paonazzo, tanto bene. Sei un po' paonazzo, sì, che immagini sì. ti venivano? Perché ti ho visto ballare di Santa Maradona, tant'è che la colonna sonora è sempre loro. Chi so Maradona? Ma chi so, Maradona. Scusami, allora, facciamo una un saluto anche al nostro regista nostro, tecnico. Certo. Ciao Simone. Ciao. Ecco, ciao. No, eccolo qua, eccolo. È gasatissimo stasera, è veramente gasato. E allora direi subito di partire. Sì, ci siete? Siamo i miei compagni di viaggio sono pronti? Ragazzi, com'è andata questa settimana? Questa è Radio F. La settimana è sempre bella perché siamo in attesa del giovedì. È vero. Che c'entra? Perché si arriva il giovedì a fare si arriva questa giovedì, trasmissione siamo fantastica. Qui a Piazza Alta, nel cuore di Foiano, per raccontarvi aneddoti, ragazzi, storie, personaggi. Qui la cultura trasuda, bando alle ciance. Ah, prendiamo l'asciugamano allora. Però almeno diciamo come possono fare ad ascoltarci i nostri amici ascoltatori. Lo dice Marcello, vai Marci, lo so bene. Che ti piace. Dopo l'ottava puntata più o meno potrei aver cominciato a capire un barlume questi mezzi di trasmissione. No, Marci, l'ottava è stasera, quindi sì, dopo la settima. Infatti non ho detto che adesso ho capito, alla fine di questa puntata forse potete ascoltarci sulla frequenza 101.2 in streaming sul sito www.radiof.it, sì, scaricando la nostra app sia per Apple che per Android. Dai, Android. E poi arriviamo a quella modalità, insomma, di comunicazione che ci permette di interagire con voi pubblico, perché se andate su Facebook e innanzitutto mettete mi piace sulla pagina di Piazza Alta, perché voi ci piacete e quindi anche noi dobbiamo piacervi. Se non c'è piacere reciproco, c'è feeling tra noi. E bene, da lì possono da interagire. Lì domani riascolteranno la puntata di stasera, però stasera possono interagire con noi. A tal proposito, Enzino, cara la mia, ecco, Saroccia, abbiamo degli amici da abbiamo salutare. Già degli amici da salutare. Abbiamo gli amici di Progetto Idioma, che tutte le settimane collaborano, si scambiano mi piace, a like, noi alacchiamo loro, interagiscono, loro alacchiano noi, diciamo ci alacchiamo. E poi la nostra fedele Edi, che già ha messo mi piace sulla prima foto che abbiamo pubblicato, che lei ci segue sempre, non possiamo che ringraziarla con l'entusiasmo che c'è proprio. Ciao simpatica amica. Potrebbe bastare. Sì, se mi permetti, sì, io volevo aggiungere anche un saluto ad Alessandro, Silvia ed Elena. Due donne! Ma, sì, ma però... chi sono? Ma lui ogni volta mette dei nomi così. Però, Marci, no, dici qualcosa di più. Rendici partecipi di queste cose. Bianche. Casualmente, sì, scegli tre nomi. Qualche settimana sono stato ma un po' più sfortunato. Ma li apri così a caso proprio? No, sì, comunque, ecco, questo fa parte della mia terapia. Ah, ecco, salutiamo l'analista. Vogliamo devo salutare fare nuove l'analista. Conoscenze. Certo. Siccome ho dei problemi socializzati, esatto. Tu chiami. Faccio il numero. Se dico, sai, vuole fare quattro chiacchiere con me, sai, trovi la massaia, ci passi la mezza giornata. Trovi se la massaia ha voglia di parlare con te. Pensa, Marco. Sara, c'era una nota compagnia telefonica che aveva uno spot che era vi diamo ascolto. E lui la notte, Marzi, telefonava e c'era l'operatore che diceva pronto, mi dica, e lui diceva ecco, no, appunto, ora lei m'ascolta, okay, perché... ma beh, tempi, chissà che tempi. Gioia, ora è tutto registrato, mi perdo nel digitare i numeri, sì, vero? Esatto. Lì perché ho, già tu oggi... non hai un buon rapporto con i numeri, Marci, soprattutto quelli del cellulare. Ora sì, ora non scenderei troppo nei particolari. Io fino al 3 ragazzo riservato, ho dimestichezza. Dopo il 3 comincio ad aver bisogno di un supporto tecnico. È perché devi scendere sotto, capito? È la linea, quella che sta sotto. Io c'è, cioè, Simone stasera non lo cosa capisco. C'è? Prova a dirmi cosa delle cose, c'è? Ma parliamone, non lo capisco. Parliamone. Urla, urlalo. Il tema della puntata. Ah, perché non era il mio analista. Grazie, no. Stasera parliamo di qualcosa. È vero, Sara, sì. Insomma, una puntata che continua a trasudare cultura. Perché mi avete zittito quando l'ho detto io, ora l'ha detta te, è una cosa intelligente. è certo, ma perché dipende da chi la dice. È la fonte che vuole. È la fonte. E allora, di che cosa parliamo? Di che cosa questa parliamo? Sera di che cosa parliamo? Parliamo di teatro. Oh, ma attenzione, attenzione, non come? Non t'agitare, non t'agitare. Allora, perché? Innanzitutto parliamo del Teatro Garibaldi. Ah, il nostro caro Teatro Garibaldi. Garibaldi. Garibaldi fu ferito. Cominciamo bene, cominciamo bene, ragazzi. Ma non dovevate studiare per stasera? Abbiamo siate fiduciosi. Abbiamo fatto studiato degli incontri straordinari di personaggi straordinari che ma durante la notte, Marzi? Tutta la settimana. E ci racconteranno cose. Ma da quando? Dal 1976. Time for Shopping. Questa è la seconda canzone di questa ottava puntata. Pensa, di Piazzalta. Siamo solo alla seconda, figurati. L'ottava è patabum tum tum. Ma mi piace. Sara, un attimo, scusa, perché c'è una telefonata che stanno cercando te, guarda. Pronto. Deve essere uno che conosci, perché ha chiesto espressamente. Sì, ha chiesto espressamente di me, perfetto. Hai lasciato qualcosa in sospeso? No, ma deve essere caduta la linea, perché ma può darsi, riprova a chiamare, amico. Se ce simpatico la fai, amico. Bene. Il Teatro Garibaldi. Sì, dicevamo, il Teatro Cara Garibaldi, Sara. Abbiamo tante cose da dire. E allora, ragazzi, io direi di partire come sempre dall'inizio, Quindi dalla storia, filosofa, visto? Così ambient. Non sbagliamo. Allora, beh, partiamo dalla storia. E quindi qual è il periodo storico o comunque il contesto in cui nasce il teatro Garibaldi? Chi comincia dei due? Enzino. Guarda, Sara, non so come ringraziarti per le tue domande, sempre più inutile che fai il serio e l'impostato non ti viene. Allora, non sei a tuo agio, sistemati. Sì, allora, il Teatro Garibaldi. Sì, siamo un po' qui per questo. Okay, il Teatro Garibaldi è stato costruito tra il 1781 e il 1783. Iniziamo dalla genesi. E se mi permetti, Enzo, nei nostri studi, nelle nostre ricerche storiche, sta venendo fuori che questo periodo è forse uno dei più fecondi per la nostra vallata e per il nostro paese soprattutto. Ma intanto, tant'è che ne parleremo. Respiro. Riprendi fiato e vado avanti io. È vero, caro il mio Marsi. Pensa, ma perché? Tra il 1781 e il 1783? Non lo so perché, però no. Prima di tutto, che giorno era? Era un giovedì. Come sempre ma siamo sicuri, Marsi, era giovedì? Le cose importanti a Foiano accadono sempre di giovedì. E quindi dicevamo venne progettato dall'architetto Leonardo Massimiliano De Vegni, nato a Chianciano e morto a Roma nel 1801, laureato in diritto civile e canonico. Pensa, è laureato in diritto civile, però ha una passione smodata, sfrenata per l'architettura, per la progettazione, tant'è che a Foiano sono sue anche la torre civica e il cimitero monumentale, tutti e tre costruiti tra il 1781 e il 1783. Quindi, due anni proprio fecondi per Leonardo. In quel periodo non fosse necessario licenze di Sì, perché altrimenti sarebbe stata dura farlo in due anni. E mi sa che c'erano anche i soldi. Può darsi. Infatti fra un po' ne parleremo. Voglio solo ricordare che il De Vegni ha fatto altre cose molto importanti. Non solo a Foiano. Bravo. Le più significative sono il piccolo teatro di Montalcino, la Porta al Sole e la Cupola della Madonna della Rosa a Chianciano, il teatro dell'Accademia degli Smantellati a Sinalunga e la piazza porticata del Sant'Istante, e in più Palazzo Albergotti ad Arezzo, ma tante altre poi. Pensa a te, quest'uomo, questo illustre nostro predecessore, quante attività aveva e che capacità aveva. È evidente che in quegli anni Foiano stesse poi vivendo un momento di rilancio economico, come dovuto essenzialmente, come non fu. Da una parte al progressivo risanamento della Val di Chiana. La bonifica, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, è stato uno degli elementi fondamentali per la nostra zona. E dall'altra ai provvedimenti a favore dell'agricoltura adottati da Pedro Leopoldo. Ah, Pedro Leopoldo. Le famose Leopoldine de Noatros. La bonifica, oltre poi a rendere coltivabile e mostrare in tutta la sua fertilità la nostra zona, favorì anche la rete viaria, e Foiano, essendo al centro della Val di Chiana, divenne proprio un punto di riferimento di tutta la zona. E quindi in questo modo era un'epoca 1776 felice. No, 1781 va bene uguale, però noi continueremo a parlare del Teatro Garibaldi, perché altrimenti magari chi si è sintonizzato ora pensa chissà di cosa stiamo parlando. Delle cose allucinanti, inenarrabili, ma le narreremo certamente, state lì. Casalingo, ami il fuoco del fornello come me. Ti alzi e poi ti svegli con il granchio nel cervello come me. E vedi che la notte e sua sorella sono come me. Noi non siamo umani e tu lo sai. Stare in casa è qualcosa di spettacolare. Uno scarafaggio si nasconde e guarda come me. Sebastian Bugatti, in arte Bugo, questo è l'artista che abbiamo appena sentito, e il suo brano è Casalingo, non nel senso che è un brano così fatto in casa, ma è proprio il titolo del brano. Interessante, si permettono anche di darsi dei nomignoli, dei vezzeggiatini. Come? Io non ho capito come si chiama. Leggo una leggera invidia. No, veramente Marzi, non... anche per te Marzi rimango è un attonito. Nomignolo. No, ma io in questo caso con questa musica rimango attonito di fronte ai misteri dell'infinito. Come Annunzio praticamente. Bugo, anche Bugo. Quando c'è... ma neanche il nome, questo... neanche il nome d'arte. Ma ci potremmo anche sbizzarrire. Stiamo portando rispetto a Bugo. Ecco. Andrei avanti. Bene, andiamo avanti. Allora, dicevamo prima, Teatro Garibaldi, questo è il tema della puntata di questa sera. Abbiamo un po' inquadrato quello che era il periodo storico. Ora ragazzi, vogliamo entrare dentro il teatro e... ora è un po' difficile, ma insomma, no, cercheremo di... Era... immagina Marzi, ho una fantasia talmente fertile che le quella nostre... è creatività. Fallo parlare, sennò vado alla lista di cosa tre volte tanto. Voglio dire, se, ho capito, se già, ne possiamo. Se già io vengo qui dopo una settimana di terapia, poi te mi togli le uniche certezze che ho, siamo finiti. Dunque, ti allora, dicevo, concentrati, cara Sara. Entriamo metaforicamente in questo nostro viaggio che facciamo con i nostri amici ascoltatori dentro il Teatro Garibaldi. Ciao. E descriviamo... amici ascoltatori. E benvenuto. Che carino, che tenero. Descriviamo la struttura, quindi l'architettura del teatro. Dal punto di vista architettonico, cara la mia Saretta, e qui potrebbe venirci in aiuto il nostro Simone se solo potesse parlare, ma per contratto può dire tre sillabe a per serata. Trasmissione, quindi ha già detto ciao. E quindi due ce le siamo giocate. Sono considerati due. Quindi ora gli facciamo una domanda, risponde sì e è finito. Esatto. Dicevo, dal punto di vista architettonico si presenta con una pianta a ferro di cavallo. E quindi Marzi e quindi nitrisce come teatro. galoppava. Se tu potessi vedere, tu segui, dammi la mano, Sara, seguimi. Ma comunque ti seguo, ti sono vicina, concentrati. Si nota che ha tre ordini di palchi sostenuti. Alza il capo, perché i palchi sono sempre più ognati. L'ha alzato veramente. E partecipo. Al piano terreno, per dargli una mano, al piano terreno, cara Sara, ci sono una serie di colonnette doriche che formano un deambulatorio intorno alla platea, caratteristica unica nel suo genere. Praticamente un piccolo loggiato di vasariana memoria. Che bello. Venendo ai palchetti, questi sono sì. 13 per ogni ordine. Se vuoi li puoi contare, guarda, conta. Mentre tu conti, sì, io e conto, sono forniti ovviamente di parapetto per i piccoli che volessero un po' per istigare. La suddivisione tra i palchetti è data da pareti curve a causa del poco spazio a disposizione, e per questo motivo anche i corridoi di collegamento hanno dimensioni minime, fino addirittura a 50 centimetri. Ma arriviamo al cuore, Enzino, del teatro. Vedi Sara, quello che vedi davanti a te è, il è un essere blu con la tua fervida immaginazione, e i nostri amici lo stanno per vedere sulla nostra pagina Facebook. È il palcoscenico, ok, lo vedi? Il parco, quello che vedi adesso e non è più quello originale, è stato rialzato di un metro rispetto a quello originale, addirittura di un metro, ed era in legno quello originale. Originariamente presentava al di sotto due camerini a cui si accedeva da un corridoio centrale che giungeva fino alla buca del suggeritore. Poi come fu? Come non fu? Decisero di tirarlo su, ma questo lo spiegheremo dopo, perché poi il teatro ha avuto un'evoluzione e da teatro è passato ad essere locale disco, ma di questo ne parliamo dopo, ci mancherebbe altro. Mentre all'esterno, caro il mio Marzi, e all'esterno come si presenta? Guarda, è una cosa talmente interessante che penso che tu sei la persona adatta per dirlo. Perché hai perso il rigo. Va bene, non importa. Sì, Marzi si è perso. No, è rimasto. Secondo me si è infilato nella buca del suggeritore. No, cioè, proprio caduto. In realtà, cara la mia Sara e cari i nostri amici, il nostro Marzi è finito dentro uno dei palchetti, ma vi racconteremo anche questo dopo. Perché è sgattaiolato. Niente, guarda, possiamo dire che all'esterno... pazzi. Aia, oh. Si picchiano? Non vi picchiate, al massimo vi graffiate, eh? Allora, all'esterno il teatro non presenta alcuna rilevanza architettonica, risulta infatti essere inserito nelle costruzioni preesistenti. Ma ora questa invece è un'informazione importante, sì. Quindi attenzione, sì. Ecco. La dico? No, fai la domanda oppure la dico, no, facciamo che è finta. Successo. Brava. Dopo infine possiamo è successo, no, dovevi dirmi che cosa possiamo aggiungere, che è successo dopo che allora, il teatro è passato di proprietà nella seconda metà dell'Ottocento, è passato all'Accademia Garibaldi e lì prese il nome di Teatro Garibaldi. Poi quando invece era pare, questo che io volevo dire, che in origine pare, dobbiamo trovare ancora conferma di questa cosa, ma si chiamasse in origine Teatro dei Coraggiosi, che è quanto mai un nome indicato ai a chi volesse riprenderlo ora in mano come situazione. Sì, nel 48 venne acquistato da un privato e nel 2002 è tornato in mano comunale. Però ragazzi, dov'è che voi avete trovato che forse all'inizio insomma allora, si chiamava Teatro dei Coraggiosi? Qui apriamo una nuova pagina di questa non la diamo, trasmissione. Non la possiamo dare come una nelle notizia nostre, certa. Nelle nostre ricerche storiche c'è un fil rouge che da oggi in poi ci accompagnerà in tutte le nostre e condurrà. Abbiamo trovato un fine conoscitore delle nostre zone, della nostra storia, che si chiama tale Mostaccioli. Ah, Mostaccioli, che per chi non lo sapesse, allievo del Becchi e in parte minima del Bastonati. Del Bastonati, però. Beh, che si rifanno tutti e tre un po' a Pietro L'Arrotino. che ovviamente L'Arrotino, scusa. No, L'Arrotino. L'Arrotino. L'Arrotino. Questa te la do come anticipazione perché sono corsi e ricorsi storici. Sì, il Mostaccioli da questa settimana ci accompagna un po' nei viaggi che faremo nella abbiamo storia di abbiamo un amico di esperto, uno storico. Il Mostaccioli. Mostaccioli. Da quando? Dal 1976. Dalla compilation Rock It volume 56, Simone ci ha passato i Nobody Cried for Dinosauri. No, no, Dinosauri. Con i loro brani, con il loro brano Teen Crush. La cosa più inquietante, lo sai qual è? Il volume 56. Volume vuol 56, dire che prima pensa di questo ce n'è anche altri 55. Aspetta, che cosa fa? Dinosaurs. Yeah. Quindi praticamente non ci aveva preso nessuno. Perfetto. Dinosauri comunque. Nessuno piange per i dinosauri. Io sono okay? Esperto di Pokémon, non di dinosauri. Ma pensa, è rimasto i Pokémon. Ma davvero, ma non si è evoluto. Non ha voluto. Perfetto, allora ragazzi, torniamo a noi perché qui il tempo passa e io so che voi di cose da dire, insomma, ne tante, avete tante. Allora, abbiamo fatto un giretto all'interno e poi all'esterno del Teatro Garibaldi. Però ora arriviamo proprio alla produzione di questo teatro. Quindi, vogliamo dire due parole sull'attività artistica? La vogliamo dire queste due parole? Sì, ci penso. Se volete, se non realtà, vi disturba. In realtà, cara Sara, non c'è tanto da dire, ma perché? Non perché il teatro non fosse al centro della cultura della zona negli anni in cui era e via. ma perché poi, non ne è rimasta traccia, almeno come fu, come non fu, non ce n'è aggiunta a noi traccia delle rappresentazioni e delle stagioni teatrali che venivano rappresentate al Teatro Garibaldi e via. E pensare che abbiamo cercato per ogni donna. Che bravi. Bravi. Però insomma un archivio non c'è e quindi mentre qui si gira meglio, pagina potremmo anche fare un appello perché noi nella nostra ricerca siamo andati nelle sedi istituzionali. Chi era? Se poi qualcuno avesse anche dei come dire Enzo? Come dire, dei documenti, dei riferimenti. Bravo, che ce li fornisca, che con i nostri potenti mezzi radiofonici. Certo, noi li sistemeremo e andremo faremo un'altra ad enuclearli. Puntata. Per cosa si faceva a Garibaldi? Oh, i primi documenti che attestano una certa attività nel Teatro Garibaldi non sono quelli teatrali, ma bensì veglioni e feste varie. Di che periodo è? Ecco, guarda, il nostro amato teatro ha iniziato ad accogliere i veglioni del carnevale nei primi anni 30 del secolo scorso. Bei tempi. E approfittiamo tra l'altro per dire che nel mese di febbraio la nostra trasmissione, cari amici, sentite sarà l'orgoglio con cui lo dice. No, attento a come lo dici, potrebbe risultare quasi una minaccia. Sarà improntata tutta sulla festa che si svolge nel nostro paese, che è il carnevale. Ecco, con questo io direi che andiamo avanti. I primi veglioni di cui abbiamo anche le locandine e che tra poco pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook risalgono appunto, come dicevo, agli anni 30-40 e sicuramente sono state parte fondamentale e attesa nei festeggiamenti carnascialeschi. È vero. Se tu avessi seguito continueresti. Certo. Sì, ora piano, ci sono molte foto infatti che testimoniano il successo di questi veglioni e anche il divertimento dei partecipanti. Il Teatro Garibaldi era davvero protagonista assoluto con il veglione del martedì grasso, il veglione del sabato precedente e negli anni d'oro anche quello del giovedì grasso. Chi più ne ha più tutto questo fino agli anni Ottanta, periodo in cui veniva svolto anche il mitico veglioncino dei ragazzi che più volte ha visto protagonista Enzo. Certo. Oh, guarda, avevo anche una foto, ma che non ho potuto postare, e lo dico proprio pregando, perché non c'ero solo io in questa foto. E ero vestito da sceriffo, vestito bellissimo, di marrone, il tipico sceriffo marrone. Però la stella era bellissima, e ho il ricordo che ci tiravamo. Segno di grande siccità, insomma, il marrone. Ci tiravamo i coriandoli fra bambini, avrò avuto 4-5 anni e raccoglievamo i coriandoli da terra. Sai com'è? Fantastico. Guarda, quindi, non viene a fagiolo. 4-5 anni, correva l'anno 1976. Grande. E una volta un bambino, che non ricordo più chi sia, prese una manciata di coriandoli da terra, me li tirò, però c'era anche un pezzo di vetro fra questi coriandoli e mi fece uno taglio sul naso. E sono dovuto tornare a casa con la nonna Antonietta, che saluto calorosamente, perché ero veramente, perdevo copiosamente sangue. Guarda, io questa cosa non la sapevo. mi spiega. Ecco, Marzi ora si è rattristato. Il mio analista dice che c'è sempre un perché a tutto. E questo episodio un po' così pericoloso, triste, capisco che ti possa aver segnato. Guarda, io lo starei a ascoltare morale, per ore, però anche lui non si capisce. Comunque, tornando ai Garibaldi, dico che purtroppo poi negli anni successivi questa tradizione è andata scemando fino a scomparire del tutto. Noi ci auguriamo che possa ripartire presto. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool to shine. Amici di questo brano, il nostro Marzi era talmente attento che si è concentrato sul fischio, dicendo: sono andato a aprire al citofono. Questo è un fuori onda che vi riporto. No, veramente allarmato. Marzi ha detto: la stagione, ragazzi, che... ma che è sto fischio? No, metti caso che era il citofono, con sto tempo, con sto buio, uno fuori dalla che porta. Che tempo! È la prima sera senza nebbia dopo 15 giorni. È sempre ma che inverno. Tempo. Allora, comunque, aspetta, questi erano i Gorillaz. No, la mia paura è che un fischio simile è il mio potrebbe essere il mio pacemaker che dà segnali di cedimento. La salute prima di tutto. Mamma mia. Chi erano? E allora, ascolta via. Questa fantastica canzone, ma chi erano? Te l'ho appena detto, se ma tu mi ascoltassi. Gorillaz nella versione B-side dell'album. Seratona. Bene, e comunque, insomma, è ormai andata, è passata. I nostri radioascoltatori avranno sicuramente capito le mie tendenze musicali. Sì, senza dubbio. Senza anche le tue tendenze avranno capito, sicuramente. Sì, ma allora, via, torniamo al Teatro Garibaldi. Andiamo, è qui vicino. E allora, prima dicevamo... Abbiamo detto, insomma, stiamo a guardare il pelo nell'uovo. Stavamo che, a parlare. Nel 1948... Come fu? Come non fu? Il Teatro Garibaldi passò nelle mani di privati. E da lì poi è cambiato un po' tutto e è diventato addirittura una discoteca. E da lì botte sui microfoni. È vero, diciamo che fino al 1972, che sono quattro anni, ben quattro anni prima del 1976, pare vi siano state rappresentazioni teatrali che in quell'anno cessano definitivamente. A metà degli anni 70 nasce la mitica discoteca Garibaldi, ma miticissima, con la domenica pomeriggio a fare da padrona. A tal proposito abbiamo raccolto alcune fantasticissime testimonianze. Il momento testimonianza, anza. Il caro amico Roberto Menchetti, un saluto alla Nicchio, che ci ha dato la liberatoria anche per il cognome e per il soprannome, chiaro, ci ha raccontato che veniva gente da tutti i paesi limitrofi: Torrita, Sinalunga, Montepulciano, Marciano, Monte San Savino e Cesa, e chi più ne ha più eccetera ne eccetera. Era il punto di riferimento della Val di Chiana. Io questo lo posso confermare perché c'è dei personaggi che conosco io ancora più anziani del Nanicchio, quindi che venivano a prendere moglie proprio a Foiano. C'era un allevamento. Non si dà. Allora, è l'amore. Il pomeriggio della discoteca si svolgeva inizialmente con gruppi, orchestre e cantanti che suonavano live. Indimenticabili le esibizioni di Pupo, il Giangio, i Delfini, i Pinguini e tanti altri. Non è, i Pinguini non c'erano. Mi sono fatto prendere da. Ma poi, e qui, guarda, sono emozionato. Con l'apertura di Radio F nel dal 1976 si abbandonarono i gruppi. Facciamo come l'altra volta. Si abbandonarono i gruppi. Enzo, scusa, posso spiegare? Noi siamo grati di essere qui e questo è anche un modo perché noi siamo partecipi di grattugiarli. Esatto. Allora, nel 1976 passammo appunto ai DJ, ai disc jockey. Primi fra tutti i fratelli Corti, per poi passare a Charlie, DJ, mitico DJ, con Nannicchio alle luci l'IJ. E ci racconta sempre Roberto, ci ha raccontato in questi giorni, che cambiò anche la tecnologia per cui si iniziò a mixare i dischi e le nuove luci crearono atmosfere differenti, perché prima di allora finiva un disco e ne partiva un altro, molto classicamente secco. Ma ragazzi, gli orari in cui si andava in discoteca, diciamolo, perché mi sa che erano un po' diversi rispetto a oggi, vero? Sì. Allora, l'orario della discoteca era dalle 15 alle 20. E la fortuna di questo, c'è anche i prezzi d'entrata? Dopo lo sappiamo, dopo in un'altra testimonianza avremo anche i prezzi del biglietto di allora. E la fortuna di questo locale, oltre alla bella musica, la fecero sicuramente i palchetti, che potremmo definire gli antesignani degli attuali privé. Eh sì, perché... Ora, se ci sono dei minorenni all'ascolto... Sì. No, ma siamo ancora in fascia protetta. Ma non diciamo niente di sconveniente. Sì, insomma, che succedeva in questi palchetti? Sono argomenti che io non conosco. Le dico io. Non so fin dove mi posso spingere. Lo dico io. Nei palchetti, cara Sara e cari amici a casa, infatti sono nate storie d'amore e non solo. Ci narra ancora Roberto che vi siano avvenuti concepimenti vari. Ecco, questa cosa non la concepisco. E non è da escludere che tra chi ci ascolta in questo momento ci sia qualcuno concepito in quei pomeriggi. E tu sai da dove vieni? E soprattutto da dove vai? Fammi finire. Per la precisione funzionava in questo modo. Ascolta bene, Sara, perché te non eri ancora nata, giusto? Può dare. Sì, non eri nata. No, te lo dico io. No. Allora avevamo tre ordini di palchetti. Nel primo ordine, diciamo al primo piano, lo dico per Marcello, ci si conosceva. Lui si è fermato lì. Lui era sotto. Mi hanno precluso ogni possibilità di socializzazione. Non ti hanno fatto andare nei palchetti. No, ma lui non c'è mai. Ma non c'era proprio con chi andarci. È da lì che il mio analista parte. Tutto lì. Sì, abbiamo trovato l'inizio. Almeno la genesi. Allora, dunque, nel primo piano, dicevo, nel primo ordine ci si conosceva, ma siccome negli altri due ordini si vedeva, da sopra si vedeva in questo ordine, certo, finiva lì. Allora si saliva, quando l'amicizia iniziava a essere un po' più importante, si saliva al secondo ordine di palchetti e lì una pomiciatina, vero, ci scappava, però era sempre in vista rispetto al terzo ordine. E allora nel terzo ordine, Marci, dimmi. Nel terzo ordine si guagliava, come si suol dire, perché più in alto ovviamente non c'era nessuno, o meglio, ci sarebbe stato, ma qualcuno che rimane. Insomma, un po' come i groni di dantesca memoria. Ma non sono i groni, sono i gironi. Ops, in separata sede, e poi ti dico quello che penso di te. Enzo, va bene. Allora, torniamo, ragazzi, mitica... mentre calma. Enzino riprendi fiato. Okay. Ecco, rilassati. Okay. Vai, torniamo alla testimonianza di Roberto. Ci raccontava ancora Roberto che la mitica squadra non era composta solo da DJ e Light J, ma anche da altri personaggi che si sono avvicendati negli anni. I barman famosi come il Bega. Non ce la faremo più. E l'Alice, oppure lo Sturm, oppure come butta fuori il grande e mitico cavallo e a strappare i biglietti. Aiuto. Gigi dell'Alpino. Ma poi di tutto il resto ne parliamo. Da Toronto, il duo che avete appena ascoltato sono i Crystal Castles e il nome del brano è Celestica. Permettimi di ringraziare Paolo che ci fa andare in onda, perché io non mi diverto mai come quando sono qua a trasmettere. Marzi, lo vedo un po' meno divertito. No, stavo meditando che l'Oceano Atlantico è la giusta distanza tra noi e chi so che... e i Crystal Castles. Crystal Castles, yeah. Yeah. Allora però ragazzi, prima abbiamo parlato della testimonianza di Roberto, torniamo al Teatro Garibaldi. Si va. Cioè, io so che voi avete raccolto un'altra testimonianza preziosa di ormai quella che sta diventando una collaboratrice altrettanto preziosa, ovvero la Grazia, che innanzitutto salutiamo e ricordiamo che è la mamma del nostro Simone. Ciao Grazia. Ciao ciao. Infatti non smetteremo mai, di ringraziarla, perché si presta ai nostri bisogni, e quindi informativi, chiaramente. Sì, certo. Siete due menti, siete le uniche due menti perverse che io abbia davanti in questo momento. Ma scusa, momento. Ma ricorda, vabbè, infatti lasciamo siamo in tre. Allora, è chiaro che siamo noi. Grazia. Sì. Ha frequentato, non faccio finta di non ascoltarvi. No, no, fai il serio. Il Garibaldi nella prima metà degli anni 70, praticamente quando ha iniziato la sua nuova attività da discoteca. E anche Grazia ci diceva appunto che il locale aprì per iniziativa del mitico Leone, a cui ci rifacciamo anche la domenica pomeriggio nella nostra pagina Facebook con una domenica da Leone. È vero? E che vi invitiamo a seguire. Oh, ok. E il biglietto d'ingresso, ci diceva ancora Grazia, che era di 300 lire, caro il mio Marzi, che all'epoca non era molto, anzi era meno costoso del cinema, che era invece di 350 lire. Le alternative domenicali in quegli anni erano per l'appunto il cinema, che era di Leone, il Garibaldi, che era di Leone, e il Medioevo, che invece era gestito dal Sussi e dal Roghi. Esatto, salutiamo il Sussi, di cui abbiamo visto pochi minuti fa un esponente della famiglia. Il pubblico del Garibaldi andava dai 14 ai 18 anni. Quindi all'inizio l'età media dei fruitori era più bassa di quella che sarebbe poi stata negli anni 80, che poi diciamo l'età un po' si è innalzata. Ma poi diciamo cosa resterà di questi anni 80? Il momento clou è stato nel 1976. Per i maggiorenni. Bene, il locale era il locale di riferimento. Quale? No, il Medioevo. Qual era? Il Medioevo. E anche su questo locale faremo sicuramente una delle prossime puntate. In quegli anni il Medioevo era il night club per eccellenza, e non solo per Foiano. E ovviamente il termine night non aveva ancora l'accezione che ha assunto poi negli anni 90. C'era proprio una distinzione netta: i ragazzi al Garibaldi e i grandi al Medioevo, dove venivano anche fatte feste private che ovviamente i minorenni non potevano permettersi. Tornando ai Garibaldi, abbiamo scoperto che alla gestione del guardaroba c'era la zia di Simone. Tu sì, è una puntata. Simone, tutta la famiglia. La salutiamo mitica anche la zia Anna. Salutiamo la zia Anna. Un po' di conoscenze, Simone. Che per tanti anni è stata proprio una figura importante. Cioè, dopo il biglietto c'era la zia Anna. Quindi biglietto e cappotto. Grazie, che appunto ci ha confermato, come ci raccontava Roberto, che fin dal 1977, in questo caso, non c'era il disc jockey e non venivano messi i dischi, ma c'erano i cosiddetti complessi. Quelli che io e il mio analista cercate di superare. Tra i gruppi più presenti c'erano anche gli Angeli Blu, abbiamo già citato il Giangio, appunto, che erano dei componenti. L'ambiente era molto tranquillo e piacevole, almeno negli anni 70 sembra essere stato così. Ma anche mio zio, no. Di chi lo zio? Cioè, no, non è possibile, ragazzi. Lo zio di Enzo. Sì, è vero. Dovevo questa la mia parte, scusami. Sì. No, ma anche dove siamo? Sì, abbiamo detto, anche lui stesso ha detto che il Garibaldi ci andavano tutti, e c'è da dire che, considerando anche il Medioevo e il cinema Apollo, la domenica a Foiano era veramente un paese vivissimo. Non c'era granché bisogno di andare a cercare movimenti e divertimenti nei paesi vicini, anzi erano quelli dei paesi vicini che venivano a Foiano. C'era insomma gran movimento. Foiano insomma, era il cuocervo della cultura, quello che della socializzazione, pensate, del divertimento. E tutto questo fino al... No, più tardi. A partire dal 1976. Something for the ragged bone man, over my dead body. Something big is gonna happen over my dead body. Preferito del nostro Simone, loro erano i Radiohead e il titolo del brano è Go to Sleep. Ancora un po' presto perché dobbiamo chiudere questa puntata. Se i miei simpatici compagni di viaggio stanno arrivando numerosissimi messaggi sulla pagina Facebook, un saluto anche a Tamara che fa un commento amaro, ma purtroppo è la verità, reale, sì. E dice: avere questi gioielli nel nostro paese e non poterli usare, non saperli usare. Ecco, vabbè, e allora si riferiva chiaramente a me, ma ti ringrazio Tamara. Ecco, poi il numero sì. Ce l'hai, benissimo. Dicevamo del Teatro Garibaldi, allora questo è un aggancio perfetto. Sì, Garibaldi fu ferito. Senso. È ferito ad una gamba, ti dirò, cara Sara. Garibaldi, chi comanda? Che comanda il battaglione. Ragazzi, su, tornate in voi. In che senso, appunto, lei diceva non poterli usare? Perché io vorrei sapere adesso, per molti anni il teatro è rimasto completamente chiuso. Che cosa ne è stato? Sì, ma sì, ecco, non del tutto, ora ti spiego. È vero che non vi fosse un'attività continuativa, ma vi sono stati organizzati veglioni di fine anno da un gruppo di allora ragazzi del paese. E poi è arrivato l'ultimo momento di gloria del Teatro Garibaldi, quando sempre come discoteca, alla fine degli anni 90, inizi i primi anni del nuovo millennio, spopolò con il nome di Tre Soldi, di Tre Soldi, o Teatro degli Eventi anche. Sono stati anni veramente di grosso successo, soprattutto il venerdì e la domenica, che anche io ho vissuto da coprotagonista, è vero, in quegli anni. Non andavo nei palchetti, ma qualcuno ci andava e io no, però, lo voglio dire, ci tengo, sai Marzi che noi integerrimi fino alla fine. Certo, male, come no. Poi nel 2002 il comune con ha acquisito il teatro nuovamente, sostenendo un notevole sforzo finanziario. Esatto. E questo è stato accolto dalla popolazione con gaudio e gioia, pensando che venisse finalmente ridestinato alla sua naturale e originaria collocazione come teatro. E invece, purtroppo, per motivi di sicurezza, e pare che i costi per poterlo ripristinare siano molto alti, che in questo momento il comune non può sostenere, per questo motivo da ormai quasi 12 anni il nostro amato teatro è completamente chiuso. E orbene, noi facciamo un appello anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando e speriamo che si possa muovere qualcosa affinché questa importante risorsa che ha Foiano, di cui abbiamo parlato fin dal 1782, possa tornare a poter farsi tornare ad essere un luogo pubblico di Vasariana memoria. Di Vasariana memoria. E allora, su questo appello e su questa speranza, noi salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao simpatici amici. E ricordiamo loro che domani troveranno la puntata online. Simone piacendo. Esatto, certo, ci pensa lui. Perché è lui che ci pensa a metterla sulla pagina Facebook di Piazzalta. Un besino a tutti quanti. Oh là là. Buon fine settimana, a giovedì prossimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, simpatici amici. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone One.